Beh, l'esperienza sicuramente è nuova perché è iniziata da poco. Progetto Critical Wine è una cosa che già quando era già praticamente 4 anni fa era già stata presentata questo tipo di idea, questo tipo di progetto. Io il problema che sarà una delle cose più importanti e innovative, oltre alla l'autocertificazione che è fondamentale, dà un'idea di che cos'è questo vino, che cosa c'è dietro, il produttore, la storia, il luogo, perché un'altra cosa importante è legare questo vino a un luogo, che secondo me è tutto, perché certo uno può assaggiarsi un Amarone, però poi assaggia un Nero d'Avola devi collocarlo in un contesto completamente diverso. Il fatto poi del prezzo sorgente, un'altra cosa che tra noi vignaioli ha creato un po' di, non tanto conflitto, ma un po' di confusione, c'è chi la vedeva in un modo, chi in un altro. Da un lato, per carità, l'idea di crescita e di discussione fa solamente evolvere le cose. Però alla fine poi a un certo punto ci siamo bloccati un po' tutto intorno a questo prezzo sorgente e ha un po' rallentato questa cosa. Però alla fine vedere un consumatore finale a un ristorante, leggere la carta dei vini, intanto va bene, certo, avere anche una qualità di questi vini, leggere di fianco quello che il vino viene venduto in cantina e poi vedere il vino che viene venduto al ristorante, il prezzo, secondo me è una cosa straordinaria. Primo perché, insomma, fa capire che quel vino viene venduto a quel prezzo, però fa capire anche che c'è stato poi un rincarico che giustamente il ristoratore eccetera deve mettere per poter chiaramente proporre questo vino, e lì dà chiaramente un'altra indicazione in più sul fatto che questa persona sta pagando un vino un po' di più, però senza avere questa idea di essere derubato, anche perché questa persona, questo ristoratore, se ha il coraggio di fare questa cosa, è intanto un'informazione in più per quanto riguarda il consumatore finale, però a questo punto dà anche più chiarezza a quello che ci sta dietro anche una ristorazione, che chiaramente non deve guadagnare solamente sul vino, però nello stesso tempo non può neanche metterlo a un prezzo sempre di cantina. Dunque è un'altra manovra, è un altro progetto di chiarezza, che alla fine secondo me è un altro passo in più per dare a un servizio, a un cliente, a un consumatore molto molto più valido, più corretto, e poi secondo me anche creare sempre di più filiere corte, cioè nel senso che se il ristoratore compra direttamente da un produttore, saltiamo al minimo 2 passaggi. Questo vino sicuramente costa meno al consumatore finale, perché non c'è un distributore, comincia ad esserci chiaramente un altro venditore di mezzo, perché molte volte il distributore è anche un venditore, sono 2 passaggi in più e minimo sono altri 30% in più di questo vino. Dunque, accorciando queste filiere ne andiamo a vantaggio tutti. Dunque penso che sia un'altra di quelle cose da sostenere, da spingere in maniera, secondo me, notevole. Come dice Paolo, anche varie carte, il fatto che non ci sono essere produttori fissi, tutti con una certa idea chiaramente, però farla chiaramente con produttori diversi, poi a questo punto magari qualche produttore entra in un'altra carta piuttosto che un altro, però sicuramente avere anche più offerte, far capire alla gente che ce ne sono parecchi di vignaioli che lavorano e hanno questo tipo di idea, come anche di ristoratori, oltre ai centri sociali chiaramente. Dunque, io penso che sarà solamente da spingere, ma secondo me potrà avere veramente un bel futuro.